Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, ma in questa giornata grigia, fredda, uggiosa, io mi tiro un po' sul morale pensando alla primavera, anche se oggi sembra impossibile, sta arrivando. Come tutte le donne però si fa attendere. Benissimo, allora noi ne approfittiamo per prepararci adeguatamente e farci trovare pronti all'appuntamento. Con la primavera alle porte ci toccherà uscire dal letargo, vincere o almeno provare a farlo, la pigrizia e muoverci, fare un po' di attività fisica. Le giornate si allungano, le ore di luce aumentano, la temperatura diventa più mite, ci tocca. Muoviti, muoviti, e allora muoviti, muoviti, comincia a muoverti, muoviti, e allora muoviti, muoviti, oh yeah. Muoviamoci sì, ma con gradualità. Ecco la parola magica per introdurre il nostro ospite, il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, responsabile del centro sportivo DDS di Settimo Milanese, che è qui in studio con me, pronto ad aiutarci a scegliere lo sport per la primavera che tenga conto anche delle nostre primavere, poche o tante che siano. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. 800 24 00 24, so che lei ha molti ammiratori, molti fans che si scateneranno per avere... Speriamo, un po' che non ci sentiamo, quindi oggi li ritroviamo con questa idea di primavera, di nuovo inizio. È dura, oggi? A oggi vedere tutto. Ma sullo sfondo verso ovest si intravede il chiaro, sta arrivando. E voi sentite la primavera? 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666, chiamateci e raccontateci, siete sportivi stagionali o annuali? Avete frequentato una palestra e adesso state pensando di affiancare al lavoro di pesi e macchine un'altra attività, magari un po' di corsa, un po' di bici, oppure come me state aspettando che la bella stagione decolli per uscire e iniziare a muovervi un po'? 800 24 00 24. Allora ragazzi, guardiamoci in faccia. Non abbiamo speranze. Capone, siamo consapevoli. Siamo consapevoli. Mister, grazie. Questo sarebbe il discorso di incoraggiamento. Belle parole, grazie, mister, grazie. Lei ci tratta come delle pippe. Questo è realismo. Perché ve la siete presa? Ragazzi, quelli sono forti. Se uno è forte, è forte. È inutile prendersi in giro. Incredibili, meravigliosi, fantastici ragazzi! Li abbiamo visti tutti! Abbiamo soltanto pareggiato, ma non ce l'ha mai successo! Io voglio sapere come avete fatto. Che a me non mi riconoscevo io! È stata la motivazione, mister! Sapevamo che stavate un po' così e vi volevamo far sognare! Motivazione da tutti pazzi per amore, ciascuno la propria. C'è chi fa moto per dimagrire, chi per stare bene, per chi trovare amici, magari fidanzati, fidanzate, per stare all'aria aperta, chi per scaricare le tensioni. E voi? Se ancora non ci avete pensato, fatelo ora. La puntata di oggi è una buona occasione e direi anche l'arrivo della bella stagione lo impone. Allora scrivete ora una ragione che potrebbe convincervi a iniziare o a implementare la vostra attività sportiva. 349 238 6666, e potete dircela anche in diretta. 800 24 00 24. Dottor Confalonieri. Beh sì, dunque, motivazione in primavera, le motivazioni sono varie, differenziate ma sicuramente numerose. Innanzitutto sembra banale dirlo, ma con il caldo, andando verso l'estate, ci si deve svestire e quindi cambia il rapporto con il nostro corpo. Uno sì. Si chiede come mai tutti tentano, cominciano, provano a mettersi a dieta, a cominciare a fare sport in primavera, perché il nostro corpo, che abbiamo nascosto per tutti questi mesi, magari anche con una certa soddisfazione, siamo obbligati adesso a mostrarlo e quindi a confrontarci. E quindi questa è una prima motivazione forte. Poi indubbiamente le giornate si allungano, il clima migliore, quindi anche per chi ha giornate particolarmente intense aumenta il tempo a disposizione per lo sport. E poi probabilmente da un punto di vista proprio ormonale, di predisposizione biotipologica, la primavera invita, sì, forse a dormire da una parte, ma sicuramente a mettersi in gioco, a fare attività dall'altra parte, quindi lo favorisce. E queste sono le motivazioni. Poi l'importante è scegliere cosa fare e come farlo, sia per chi fa già sport e in primavera magari cambia o aumenta la quantità di sport che fa per trovare nuove motivazioni, nuove gratificazioni, sia per chi comincia o ricomincia, che è la grande quantità, credo, dei nostri ascoltatori. Ogni primavera si ricomincia, perché ogni primavera tornano tutte queste motivazioni di cui abbiamo parlato. Insomma, la primavera è la stagione migliore per lasciare gli ormeggi dell'inverno, saltare verso una dimensione più vicina al nostro benessere. Ho letto un articolo della dottoressa Roberta Giommi che mi è piaciuto molto, perché porta a vedere la primavera più che come una stagione, come una splendida occasione. La primavera, prima di essere una stagione, un cambio d'abito, è una dimensione simbolica che ci spinge a domandarci se non sarebbe bello mettere in movimento la vita, giocare qualche mossa a sorpresa, sciogliere le nostre ancore pesanti e lasciare che i giorni prendano un'altra forma, perché abbiamo più coraggio negli spostamenti, nelle piccole vacanze, nella ricerca di mare, acqua e sole. Bisogna lasciare che accada il risveglio dentro di noi. La voglia più forte di vedere e mettersi in contatto con le sensazioni e le emozioni. Sentire se abbiamo voglia di sperimentare cose nuove, sentimenti diversi. Di aprirsi alla dimensione lunga e luminosa del giorno che si apre ad una notte più facile per essere percorsa in libertà. Insomma, il frizzicorino della primavera, voi iniziate a sentirlo, io mi sforzo di sentirlo perché la cosa mi fa stare bene. 800 24 00 24. Intanto voglio salutare il professor Roberto Manfredini, direttore della clinica medica all'azienda ospedaliera Università di Ferrara. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti, anche se non è molto primaverile. No, però insomma noi la primavera, come si dice, ce l'abbiamo dentro, la stiamo aspettando e facciamo finta di vederla, ma qualcosa dentro di noi si sta risvegliando, è una questione di tempo e di ritmi. È possibile. Vero? È sicuramente possibile, perché dobbiamo ricordare che insomma noi veniamo dall'uomo ancestrale, dall'uomo primitivo, dai grandi animali, quando inverno voleva dire chiudersi nella grotta, risparmiare al massimo le attività, le calorie, un po' come il nostro computer quando lo mettiamo in stand-by. Sì. E cercare con il buio, quindi con la melatonina che blocca il metabolismo dell'organismo, oltre che far dormire, di risparmiare tutto per quando? Per la primavera, quando ricomincia la luce, inibiamo la melatonina, si esce, si torna fra virgolette a vivere, si torna a cacciare, a muoversi, a fare attività fisica, insomma la primavera è il risveglio dell'organismo. Insomma abbiamo tutto quello che serve, vero, per muoverci, per darci per riprendere il passo, per scrollarci di dosso la pigrizia del letargo invernale. Assolutamente sì. L'attività fisica, direi che naturalmente adesso siamo in epoca di luce artificiale, quindi la si può fare in qualunque momento, però la primavera ci aiuta molto, la primavera ci aiuta perché ci permette di farla magari nel tardo pomeriggio, nel pomeriggio, quando le giornate si allungano, quando la temperatura magari speriamo diventi un pochino più mite, quindi quando la nostra macchina fisica è anche più in forma per fare l'attività fisica, quindi una bella passeggiata, una piccola corsa o non so, un po' di palestra eccetera, trova muscoli, metabolismo e cellule particolarmente pronte a dire sì in quel preciso momento. Senta, ma lei parla di pomeriggio come del momento ottimale per fare un po' di attività sportiva, proprio perché il nostro organismo è pronto, dal meglio di sé, però sai, magari uno lavora oppure deve recuperare i figli a scuola, andarli a accompagnare alle varie attività sportive per l'appunto, e se la facessi la sera? Certo, no, va benissimo anche la sera, anche la macchina uomo va benissimo nel pomeriggio, ma anche la sera. L'importante, ecco, come piccolo consiglio direi di non fare alla sera un'attività fisica importante, una palestra dura, uno sforzo importante. Perché? Perché rischieremmo poi di dover pagare questa attività fisica con la difficoltà del sonno. Certo, senta, a proposito di sonno, questa luce in più, e fra poco ci si metterà anche l'ora legale, non può dare problemi di sonno? Perché poi io tutti gli anni la chiamo e le dico, senta, non è che è una specie di piccolo jet lag? E lei mi dice, no, così piccolo. No, così ci portiamo avanti, non la disturbo per il cambio dell'ora. Non roba mai. E poi non è vero che abbiamo sempre trovato un accordo sul fatto che lo chiamiamo mini jet lag. Sì. È vero, nel senso che per persone particolarmente sensibili, per esempio persone molto metodiche nei loro orari, nell'orario di prendere sonno, nell'orario del lavoro, nell'orario del risveglio, oppure persone che si coricano molto presto, o persone che hanno difficoltà a addormentarsi, oppure sì, le famose allodole, sì, quelle che al mattino sono più in forma, l'allungamento della giornata e quindi l'aumento forzato della luminosità potrebbe creare, specie all'inizio, qualche piccolo problema, sensazione di stanchezza, un po' di irritabilità perché certo, magari non si dorme bene, un po' di mal di testa, un senso di nausea, è un mini jet lag. Però allora noi siamo pazienza. Anche perché insomma siamo disposti a pagare questo piccolo prezzo, no? Assolutamente sì. Dai. E poi in pochi giorni i ritmi si aggiustano e la primavera è bella e le giornate sono lunghe. Fantastico. Anche perché so che ormai lei è una lodolina come me. Sì, sì, molto allodolina. Invece il dottor Confalonieri è un gufaccio. No, allodola al 100%. Va bene, grazie professor Manfredini per essere stato con noi. Buona giornata. Allora, approfittiamo della stagione, se in inverno abbiamo frequentato più la poltrona che la palestra, facciamoci consigliare dal dottor Confalonieri un bel programmino per risvegliare il nostro tono muscolare, che sarà anche un toccasana per il nostro umore, ma chiamate anche se siete sportivi veri, appassionati, fedeli, costanti, appagati. 800 24 00 24. Salvatore è in linea da Palermo. Buongiorno Salvatore, benvenuto. Sì, buongiorno. Comunque, telefono da Termini Varese, mi chiamo Salvatore Sansone. Semplicemente volevo dire questo: io faccio palestra per vari motivi. Uno, perché soffro di ipertensione, sono pure in sovrappeso, peso 120 kg. Tra l'altro, pure la faccio però anche perché mi piace rafforzare i muscoli per essere più sicuro anche nei rapporti interpersonali. Certo. Sono iperteso e quindi lo faccio anche per questo. E poi però voglio dire una cosa: in primavera probabilmente, come faccio quasi sempre, vado a correre qui in una famosa villa della mia città di Termini Imerese, che è la Villa Palmeri, e poi anche faccio una scalinata che collega due vie della mia città, la via Nenni con via Lamalfa, una scalinata di 112 scalini, e poi faccio però anche un po' di esercizi di respirazione. Magnifico, ma Salvatore è fortunato perché già vive a Palermo e quindi ha già un clima diverso, e poi insomma correre. Sì, tra scalinate, corse nei parchi. Diciamo che la sua primavera sicuramente il muscolo ci guadagna. Ha più qualità della nostra. Ma no, due consigli. Innanzitutto, qui c'è un problema grosso di sovrappeso, perché parla di 120 kg, quindi indipendentemente dall'altezza credo sia fondamentale anche intervenire con la dieta e non limitarsi all'esercizio fisico, per quanto bene possa fare l'esercizio fisico. Questo poi porterà a migliorare anche le relazioni interpersonali. Relativamente all'esercizio fisico, trattandosi tra l'altro di un soggetto iperteso, molto bene la palestra, però non possiamo fare solo palestra. È chiaro che bisogna fare un'attività di resistenza. Camminare, magari fare le scalinate come diceva lui, è perfetto. Andrei con molta prudenza invece rispetto alla corsa, perché il rischio di un sovraccarico a livello articolare che poi impedisca qualsiasi attività al nostro amico di Palermo è molto molto elevato. Quindi direi ok le scalinate, ok le passeggiate, magari proviamo a nuotare o ad andare in bicicletta, perché la corsa sinceramente la vedo un po' pericolosa, diciamo post dieta. Dottor Confalonieri, di che informazioni ha bisogno? Perché noi ci stiamo rivolgendo ad un pubblico ampio. C'è chi ha sempre fatto attività sportiva anche durante l'inverno, è andato in palestra, oppure io quando porto il mio cane al parco vedo anche persone che corrono alle 6:30 del mattino nonostante il brutto tempo, quindi ci sono gli sportivi amatoriali veri e quelli invece come noi che si risvegliano solo a primavera, magari no, la primavera che verrà, ecco. Ma io direi che semplifichiamo molto il discorso, così coinvolgiamo anche tanta gente e mandiamo un messaggio comune a tutti, poi vediamo come approfondirlo. Abbiamo chi non ha mai fatto sport o chi è tanti mesi che non fa sport o esercizio fisico, e direi partiamo in modo semplice ma già con un progettino di cross training. Cosa facciamo? Banalizziamo la cosa. Ci alziamo la mattina, 12-15 minuti di ginnastica, quella banale, quella semplice, un po' di addominali, un po' di potenziamento dei lombari, un po' di allungamento muscolare, nulla di più. è già sufficiente. Questo 2 o 3 volte a settimana, le altre 2 o 3 volte una bella passeggiata, una bella camminata che magari durante il weekend si trasforma in un'uscita in bicicletta. E questo concetto di cross training lo applichiamo anche con l'arrivo della primavera a chi invece è sportivo appassionato. Ci siamo dedicati soprattutto alla palestra. Bene, è ora di metterci in movimento con la corsa, con la bici, col nuoto, con le remate, con uno sport di resistenza. Viceversa, siamo cultori del jogging o della bici, è ora di andare in palestra per riequilibrare un po' tutto ciò che non alleniamo normalmente con la corsa o con la bici. Quindi direi, parola d'ordine per entrambe le categorie, cross training, incrociamo attività diverse, ci faremo del bene, ci divertiremo di più. Anche perché c'è la R come gradualità, lei le cerca, le parole con le S e lei quelle con la R, e io non posso non sentire una mia omonima che ci chiama da Monza. Nicoletta, buongiorno. Buongiorno a voi, allora non sgridatevi, non ridete di me. No, ma quando anni. Mai? Ma quando no, mai? Vi spiego, 58 anni, 50 sigarette al giorno, 20 caffè, lavoro 13 ore al giorno, non posso dirmi faccio un pigra. Preferisco la scopa d'assi nei pochi momenti liberi, una bella lettura, un cinema. Detesto fare sport, ne ho fatto tanto in gioventù, però sono arrivata a 58 anni senza aver avuto neanche un mal di testa, quindi sono estremamente fortunata. Il mio problema è che adesso 1,72 di altezza, però sono diventata 70 kg, ben distribuiti, nel senso che non li dimostro, però ci sono. Vorrei dimagrire con un qualcosa che ogni tanto in ufficio, quando scendo dall'auto o quando vado in giro, ma non a tempi fissi, mi dia un aiutino, giusto per augurarmi una buona primavera. Bello, Nicoletta, mi piace, questa Nico mi piace molto, perché insomma è un caso un po' difficile. Io direi a Nicoletta, venga a vivere un po' da noi qua, io faccio venire il dottor Confalonieri, dobbiamo smettere un po' di fumare, almeno ridurre, mi ma sembra. Diciamo, intanto vive a Monza e quindi ha la grande opportunità del parco, che non è un'opportunità da poco. Qui il problema è che probabilmente per Nicoletta sarebbe però meglio in questo momento occuparsi prima dei 20 caffè, delle 50 sigarette, che non dei 72 kg, mi spiego, in termini di urgenza. Forse ponendoci con gradualità un obiettivo alla volta, riduciamo un po' i caffè, riduciamo un po' le sigarette e poi pensiamo anche al peso. Rispetto al discorso del peso, io direi un consiglio già dato altre volte, ma con persone così impegnate e fondamentali: usa i mezzi pubblici. Benissimo, 2 fermate in meno. Sì, diventa un lavoro. Però consiglio, è un allenamento enorme, perché va tradotto: ci sono 400 metri al giorno, 2 fermate in meno, sono 2 chilometri alla settimana. 2 chilometri alla settimana sono 100 chilometri all'anno, non sono Caspita. Poche cose. Ecco, bisogna tradurlo poi. Bravo. Da 0 a 100 c'è un bel incremento. E poi andiamo magari nelle ore più tranquille, nelle ore in cui non è super affollato, nelle ore in cui si può riscoprire se stessi e non solo la natura, prenda e un poco alla volta si rifaccia tutto il parco di Monza. Ecco, e quando le viene voglia di accendere una sigaretta, prima di accendere quella lì, provi a fare una piccola passeggiata. Può essere anche proprio il giro della, almeno non accende quella, a volte funziona. Sì, oppure continui ad accendere 50, ma ne fumi prima metà e poi soltanto un terzo. Può essere anche questa un'indicazione. Essere e benessere. Caricarci, a pensare che nonostante tutto, nonostante almeno oggi qua a Milano una giornata davvero, sembra inverno, grigia, fredda, umida, io ho il sole qua perché c'è il dottor Confalonieri, tornerà la primavera, e voi raccontateci se sentite, annusate qualche cosa che sta cambiando e se vi viene voglia di mettere fuori il piedino, di fare qualcosa, di cambiare, di prendere questo cambio di stagione con un, come un'opportunità per fare qualche cosa per voi. 800 24 00 24 potrebbe bastare proprio una telefonata, ad esempio. Silvana ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno, volevo testimoniare del fatto che io ho 70 anni e più o meno ho fatto sport tutta la vita, ma non a livello agonistico, sì, proprio a livello di divertimento. E, malgrado che abbia 70 anni, mi sento come se ne avessi 30. Ma infatti lei ha una voce magnifica. La ringrazio. Ma che sport... lavorato anche. Ecco, si lavora, sport... si fa sport, ma che sport ha fatto? E continua a fare. Volontariato. Vede, un bel mix. Com'è? Un bel mix, dico. Sì, sì, un po' di mix ci vuole nella vita. Sì. Faccio tennis, corro, nuoto e scio. Caspita, brava Silvana. Dottor Confalonieri, insomma, Silvana ha impiegato il suo tempo, ha sempre fatto sport nonostante lavorasse. Insomma, chi vuole il tempo lo trova, no? Certamente. Invece poi... molti ascoltatori mi stanno scrivendo: lavorando tutto il giorno non ho tempo. Anch'io dico così, però secondo me poi alla fine, no? E poi c'è questa, no, sì, va ritagliato su misura anche il tempo come l'attività. E poi c'è dietro questa ricetta del mix nella vita e nello sport, che comunque richiama quel concetto di cross training cui vi ho invitato prima. Qui c'è un'attività molto divertente come il tennis, delle attività più classiche ma a contenuto di forza come lo sci, piuttosto che di resistenza come il nuoto, stagionali e diverse per caratteristiche fisiologiche. Non ci si stanca e si sta bene, perché si va a toccare un po' tutte le diverse qualità psicofisiche di ciascuno di noi. Quindi dateci anche voi la vostra ricetta, 800 24 00 24, o se nonostante tutti gli sforzi, nonostante voi vi stiate impegnando, magari l'avete già fatto da qualche mese, di solito con l'inizio del nuovo anno uno dice va bene, vado in palestra, ma molti non vedono i risultati. Cammino, mi muovo, vado a correre, sto un po' a dieta, non calo di un etto. E questa, dottor Confalonieri, lei lo sa, è una delle motivazioni, no, più forti per soffrire un po', no? Soprattutto per noi pigri. Vabbè, devo perdere qualche chilo, mi metto in moto. Giancarlo ci chiama da Ferrara, buongiorno Giancarlo. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. È proprio così come diceva lei. Io è dal 2 gennaio che, dopo aver messo su qualche chilo per le feste, no? Sì. Ho cominciato la mia attività che faccio quasi sempre, comunque diciamo si smette un po' nel periodo freddo. Sì. Dal 2 gennaio faccio per 3 sere alla settimana la mia orettina di corsa. Bravo, 10, Giancarlo, 10, come chilometri. Lei? Però non vedo nessun risultato, non sono riuscito a calare di un etto. Eccolo lì. Vede, ho fatto e non ho visto nulla. Giancarlo non è tanto soddisfatto, eppure corre 3 volte alla settimana. Allora, cosa ci dite che muovendoci un po' perdiamo il peso? Dottor Confalonieri. No, è vero, però questo nasce un po' da un equivoco di fondo. Cioè, correre e muoversi fa bene. Correre e muoversi incrementa il nostro metabolismo, i nostri consumi, ma è molto più semplice dimagrire riducendo l'apporto calorico che non aumentando i consumi. Banalizzo, così mi capite ancora meglio. Che non è carina come frase, noi capiamo anche se lei non banalizza, però se vuole banalizzare... Ma rimane più in mente. No, sto scherzando. Allora, un cioccolatino, non faccio il nome, ma un cioccolatino di quelli più in voga, più quelli tipicamente consumati a Natale, equivale a circa 25-30 minuti di corsa. Caspita. Vede che le rimane in mente adesso. Sì. E quindi il ragionamento da fare è: a parità di condizioni è più semplice perdere peso rinunciando a un cioccolatino che non correndo 20-25 minuti. Poi è chiaro che in termini di salute invece l'abbinata funziona. Però, come ho detto tante volte, l'esercizio fisico serve ad ottimizzare gli effetti di una dieta. Quindi se il nostro obiettivo è perdere peso, partiamo dalla dieta. Se il nostro obiettivo è stare bene, abbiniamo alla dieta l'esercizio fisico. Se è semplicemente stare bene, mangiamo con voluttà e facciamo esercizio fisico. Marco ci chiama da Udine, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'opportunità di parlare. Io faccio una premessa, sono un ex giocatore di rugby. Lei gioca, lei è avvantaggiato allora, Marco. Mica tanto, perché ho sempre trovato difficoltà dopo a fare altri sport che non mi dessero degli obiettivi, per cui sono arrivato a 39 anni con quando giocavo pesavo 70 kg, ne ho messi 36 di più su negli anni con un lavoro sedentario. E adesso sto facendo una tabella perché ho un obiettivo che vorrei partecipare a un trail running di un centinaio di chilometri. C'ho un coach che mi sta seguendo, faccio Nordic Walking 5 volte alla settimana con cardiofrequenzimetro, per cui sotto tengo monitorato la frequenza cardiaca, e 50 chilometri medi alla settimana. E caspita, fa le cose per bene però, eh? Sì, però non riesco, ho buttato giù in 2 mesi 2 chili e seguo anche una dieta, non mangio dolci perché non ne ho mai mangiati, mi alzo la mattina con una fame incredibile, mangio una fetta di pane e 2 fette di prosciutto e via. Però non riesco a dimagrire, faccio 5 pasti al giorno con un frutto a mezza mattina e mezza pomeriggio. E insomma, Marco, adesso la passo al dottor Confalonieri, perché insomma Marco mi sembra che stia facendo veramente un programma da atleta, eppure soffre anche la fame. È che non va bene. La telefonata è molto interessante, nel senso che intanto evidenzia un problema, perché se è vero che da una parte cominciare a fare attività non è che porti rapidamente a perdere peso, smettere di fare attività ci porta ad aumentare di peso molto rapidamente. Purtroppo funziona così. Noi siamo stati fatti in funzione della sopravvivenza e non in funzione dell'estetica, quindi il nostro corpo si difende rispetto alle variazioni di cibo. Quando diminuisce la disponibilità conserviamo tutto, quando aumenta la disponibilità comunque non è un problema e quindi tendiamo ad ingrassare. Lo stesso vale per i consumi, quindi questo purtroppo è un problema difficilmente risolvibile. Direi che la scelta che ha fatto è giusta, perché ha scelto, essendo un ex sportivo agonista, un obiettivo e quindi ha trovato la motivazione, che poi è la base di quindi qualsiasi scelta. Quindi questo è il consiglio che si può dare a tutti, esatto, coloro che hanno soprattutto praticato se siete sport. In difficoltà, cercate un obiettivo forte come può essere questa camminata di 100 km. Ha scelto l'attività giusta, che è il Nordic Walking, quindi la camminata veloce con i bastoncini. Probabilmente c'è qualcosa che non funziona a livello di dieta, anche se da quello che si è sentito, i 5 pasti al giorno, l'abolizione dei dolci, quindi dei grassi o degli zuccheri semplici e intelligente, evidentemente c'è ancora un eccesso di calorie, probabilmente distribuite male, perché poi la mattina ha fame. Però ci sono momenti in cui probabilmente c'è un apporto calorico superiore alle necessità e questi gli impediscono di dimagrire, perché anche la distribuzione ha il suo peso. Sì. 800 24 00 24. Ma Marco, con tutte queste cose che fa e muoviti eccetera, mi ha fatto venire in mente anche un po' un'immagine di fatica, e tante persone proprio non riescono a raggiungere realizzare i loro propositi proprio perché è dura. Noi dopo l'inverno ci sentiamo stanchi. Essere e benessere. Voglio leggervi il messaggio di Claudio che ci racconta: vado a correre con uno che dopo 20 minuti di corsa si ferma al bar, 2 paste e caffè, e dice che non cala. Sì, in fondo poi ci... no? Ho capito, però potrebbe anche essere una scelta: uno non si toglie il vizio delle paste col caffè, ci corre sopra così non cala ma non ingrassa nemmeno. Vede, troviamo una soluzione e una giustificazione a tutti, quindi chiamateci 800 24 00 24. Dottor Confalonieri, la primavera per alcuni più che la stagione del risveglio è la stagione della stanchezza, tutto sembra faticoso, e quando lei ci dice scendete prima dall'autobus, 2 fermate, uno inizia a dire scendo adesso, vabbè dai domani. E in linea con noi abbiamo il dottor Marco Temparin. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta, un saluto a tutti. Lei è stanco o no? No, non sono stanco. Intanto voglio ricordarvi che il dottor Marco Temporin è medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMSR Veneto Medico di Altavilla Vicentina. Per me è un po' una sfida leggere questa qualifica, perché tutte le volte mi impapero. Ma dottore, lei ha qualcosa per noi quando ci sentiamo un po' fiacchetti, molli, stanchi, ancora un po' in letargo, insomma? Certo, diciamo che in questa stagione, soprattutto con l'arrivo della primavera, si tende a essere un po' stanchi, si fa difficoltà a partire, per cui la natura ci viene incontro con dei rimedi proprio specifici per questo tipo di problema. Uno dei rimedi che può essere più utile si chiama eleuterococco. L'eleuterococco è definito Eleuterococcus senticus, è una pianta che viene definita un adattogeno, quindi cioè? cioè ci aiuta sostanzialmente, ci fa adattare, ci aiuta in questi momenti di stress, di affaticamento, permettendo di migliorare ovviamente la nostra... Senta, ne do un po' anche al dottor Confalonieri, che è in ottima forma, mi sembra un po' stanco, ma dove lo si prende, sotto che formula? Dottor Confalonieri, vede che lo sistemo io. Mi racconti un po', cosa gli do allora? Allora, diciamo che si può trovare sia in tintura madre, quindi è un estratto idroalcolico, e se ne possono assumere per un adulto sano 30 goccine 2-3 volte al giorno, ovviamente evitando alla sera, oppure l'estratto secco ovviamente si reperisce in compresse, e quindi si possono assumere queste compresse, dipende ovviamente dalla concentrazione, ma da 2 a 4 compresse al giorno. Per quanto tempo facciamo questa cura e ha delle controindicazioni? Se no poi il dottor Confalonieri non torna più a fare l'esperto qua e io sono un po' in difficoltà, può capire. Allora, diciamo almeno per una quarantina di giorni, l'eleuterococco non ha controindicazioni importanti per chi è sano, ovviamente lo sconsiglierei a persone a cardiopatici e a persone per... Lei mi ha detto naturalmente non alla sera perché agita un po', come si dice, tiene allora, sveglio? Sì, volgarmente viene definito l'eleuterococco viene definito il ginseng siberiano, quindi ha un po' lo stesso effetto che ha il Panax ginseng, quindi è un tonico, però agita di meno rispetto al ginseng siberiano rosso, quindi però al ginseng rosso. Agita un po', per cui non prendetelo prima di andare a dormire. Assolutamente no. Grazie dottor Temporin, poi le racconto, lo faccio, dottor Confalonieri, prenderà l'eleuterococco? Sono pronto. È pronto, poi ti racconto. Intanto andiamo da Luigi da Lodi. Buongiorno. Pronto? Luigi, buongiorno. Buongiorno. Niente, io ho sentito 10 minuti fa, un quarto d'ora fa, che il dottor Confalonieri diceva appunto chi fa corsa di abbinare in questo periodo qualcosa di diverso. Sì. Volevo capire se era sufficiente, io corro tutti i giorni da 5 anni, bravo. Faccio una mezz'oretta al giorno di corsa. Corsa. Anche corsa... quando piove, Luigi? Piove, nevica, tempesta. Io quanto la invidio, Luigi, perché io non riuscirei mai. Perché? Lei mezz'ora al giorno, perché inizia a dire, vabbè, dai, oggi piove, vado domani, dai. Poi domani viene... Abbiamo veramente una mente che produce scuse. Tantissimo. Hai voglia. Quindi Luigi corre mezz'ora al giorno, vorrebbe abbinare qualcosa. Magari però, io direi più divertente della corsa, no? Luigi, perché è bella, ma magari... Che dice? Però volevo chiedere se era possibile abbinare nuoto e ballo. Bravo, il ballo già mi è simpatico. Dottor Confalonieri? Il nuoto sfonda una porta. Sì, vanno bene entrambi come sport da abbinare. Il nuoto perché ovviamente c'è un utilizzo prevalente degli arti superiori, differentemente dalla corsa, e quindi completa quello che è il condizionamento muscolare. Il ballo perché comunque è un'attività più intensa e più intervallata, quindi sul piano del consumo metabolico e della risposta cardiovascolare all'esercizio si integra bene con la corsa. Quindi direi sicuramente sì. Allora, facciamo un piccolo riepilogo. Se volete perdere peso, innanzitutto mettetevi a dieta e poi ottimizzate gli effetti della dieta con l'esercizio fisico. Parlando di dieta, state attenti che ciò che è fondamentale è l'apporto calorico globale e la sua distribuzione durante il giorno. Quindi, perché si dimagrisce più riducendo le porzioni e distribuendo gli alimenti in modo intelligente che ammazzandosi di corsa. Esatto. Questo siamo, arriviamo a dire questo. Perfetto. Secondo, per un po' modellare il muscolo secondo, e avere anche delle prestazioni più intense. Se non avete mai fatto nulla, fondamentale abbinare due attività, un po' di ginnastica o a caso in palestra e un po' di attività aerobica, quindi di corsa piuttosto che di nuoto. Io ho sentito che al nostro ascoltatore che faceva la corsa, lei suggeriva ad esempio il nuoto, perché con la corsa si usano le gambe. Con il nuoto si usano riprendiamo le braccia, quindi la complementarietà. Brava, riprendiamo il concetto espresso all'inizio, cross training, quindi abbiniamo attività che impegnano o settori muscolari diversi o che ci impegnano in modo diverso, che so, un'attività più intensa e intervallata, il tennis, il ballo, e un'attività più lunga e continuata, la corsa, il ciclismo, oppure addirittura un'attività che impegni la muscolatura in modo globale, tutti gli sport di resistenza, un'attività che la impegni in modo settoriale, la palestra. Sul nostro sito, sulla pagina anzi di Essere Benessere, troverete un'intervista che al dottor Cottini, allergologo, immunologo clinico e pneumologo, perché ci siamo chieste come, quali informazioni dare alle persone che sotto sforzo hanno l'asma, oppure anche che si manifesta proprio solo in quell'occasione lì, oppure le persone che sono allergiche in generale, quali sport possono fare, se possono farle, con quali avvertenze. Intanto, dottor Confalonieri, io la ringrazio. Grazie a voi, ben ritrovati. Ci sentiamo presto, grazie per essere stato con noi. E in chiusura voglio salutare il professor Bruno Dalla Piccola, direttore scientifico del Bambino Gesù di Roma e di Orphanet, un servizio di informazione al pubblico sulle malattie rare e i farmaci orfani. Oggi infatti si celebra la quarta giornata mondiale delle malattie rare. Professore Dalla Piccola, buongiorno e grazie. Buongiorno. Professore, rari ma uguali, recita così lo slogan della giornata. Ma per realizzare questo obiettivo c'è ancora parecchia strada da fare. Assolutamente sì. Sono 8.000 queste malattie, conosciamo solo in parte le loro basi biologiche, abbiamo a disposizione solo un numero di farmaci non adeguato per combattere tutte queste malattie, la ricerca ha bisogno di crescere, la presa in carico e la rete dei pazienti deve migliorare, quindi c'è molto da fare, ma c'è sicuramente una sensibilità crescente nel Paese e questo è un auspicio, un ottimismo per quello che andremo a fare proprio nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quali sono le urgenze delle malattie rare e che cosa sta muovendo? Diciamo che ci sono due emergenze fondamentali. L'una è poter ampliare ulteriormente questo elenco del numero delle malattie che sono ferme ad una legge di 10 anni fa. La conferenza Stato-Regione ha già allargato di un centinaio di queste malattie, quindi crediamo che sia ormai maturo il tempo per consentire ad altri pazienti rari non ufficialmente riconosciuti di essere riconosciuti. La seconda cosa è sicuramente, ci chiama l'Europa nel 2013 a fare la rete delle malattie rare, quindi un qualcosa che darà indicazione a tutte le regioni per consentire omogeneità a tutti i pazienti. Professore, grazie. Prima di salutarla ricordo il sito di Orphanet e il sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Professore, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi, buongiorno. E buongiorno a voi che ci avete ascoltato, l'appuntamento come sempre torna domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.